يفعل الله ما يشاء بقدرته. Allah fa ciò che vuole con la sua potenza. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ e governa ciò che vuole con il suo potere. أَلَا إِلَى اللَّهِ تُسِيرُ الْأُمُورُ certamente verso Allah viaggiano le azioni. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجَهَ ogni realtà creata è destinata a perire, ma non l'essenza increata di lui. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. A lui appartiene il governo e a lui state facendo ritorno. Fasayakfikumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim. E Allah vi salverà. Egli è colui che tutto ode e che tutto sa.